qualcuno. O c'è? Villa vicino il rito annuncia. Abbia che giunga l'altar, si rapisca o vada, così io lodo cantate di quegli archi all'ombra celatevi. A fra poco mio diverrà, tutto mi investe un poco. Per me non fatale i tuoi momenti affretta presto la gioia che m'aspetta vogliamo ormai dare vogliamo ormai non andare in vano un Dio arrivare domani alla rapirti a me, rapirti a me, no, no, no, no, rapirti a me, thank you.